la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quando parlo al bar sotto casa mia, l'altro giorno parlavo con il mio amico Mario, lui è un energumeno, sai, quelli un po' palestrati, eccetera. E un giorno gli ho detto: ma tu sei favorevole all'energia solare? Fa: oh cazzo, un giorno sì, un giorno no, vado a farmi la lampada. C'è chi un giorno ha avuto un malore, ma va? C'è chi sbaglia a parare il rigore. Questa è la storia di Diego Parasole, attore comico vista dall'inizio. Un'infanzia piena di natura e vacanze in montagna. Una giovinezza trascorsa ad Alessandria, nella provincia morbida e protetta. Sono iscritto al CAI da più tempo, da più anni di quanti non ne abbia io in qualche modo. Per cui è stato un contesto assolutamente tranquillo. Come sempre succede in provincia, tutto arriva dopo, cioè comunque sia, è vero che ero piccolo, ma ovviamente non ho vissuto gli anni del 68, gli anni, anche gli anni di piombo in qualche modo sono passati nella mia infanzia molto più tangenzialmente, quasi come se non fossero esistiti. Lei era figlio unico? Sì, lo ero e lo sono tuttora. Una vita serena che procede senza alcuno strappo. Se vogliamo, un po' la mia infanzia è passata spesso a giocare da amici che magari avevano una cascina, quindi giocando a nascondino nei fienili e cose di questo tipo. L'amore per la campagna, gli animali, la natura mi ha sempre molto caratterizzato, per cui forse anche sulla base dell'influenza dei libri di James Herriot, veterinario, mi pare inglese, che aveva scritto parecchi libri appunto sulla sua professione, eccetera, avevo l'idea della professione del veterinario come di una professione comunque molto ludica, molto a contatto con la natura, eccetera. Mettendo insieme tutte queste cose, arrivato al periodo in cui ho deciso di appunto iscrivermi all'università, la scelta di veterinaria è venuta quasi automatica. E a un certo punto però la sua vita ha preso una direzione diversa rispetto al percorso che si era immaginato, cioè iscrivendosi a veterinaria forse non si immaginava di diventare un cabarettista? Direi di no, però la mia infanzia che è passata anche attraverso il mondo scout, per cui ho fatto da lupetto a caporeparto, negli scout mettevo in scena degli sketch comici, eccetera. L'amore di Gianni Robotti per Woody Allen mi è stato in qualche modo trasferito e io già al liceo avevo iniziato a comprare non più le agende con le battute degli altri, ma un'agenda bianca dove ogni giorno scrivevo delle battute. E quindi c'era un po' una passione per l'umorismo, la comicità, eccetera, che era nata già prima. A un certo punto a Torino, dove studiavo veterinaria, ho iniziato a frequentare dei corsi di teatro perché la cosa mi appassionava, mi divertiva, e poco per volta ho iniziato a dedicare più tempo al teatro che non agli studi. Questo ovviamente non con grande soddisfazione dei miei genitori. La vita di Diego Parasole procede normalmente, è solo un po' più estroverso di altri e ha il dono della battuta sagace, per il resto studia e passa gli esami. Eppure il fuoco sacro del teatro comincia a farsi sentire, Diego non resiste, la svolta è iniziata. La prima volta è ormai al via, però il sogno di fare il comico si deve confrontare con una dura realtà, quella della gavetta. E non so se si possano raccontare, perché come molti dei comici della vecchia generazione io ho lavorato veramente in qualunque tipo di locale, da quelli, possiamo dirlo, alla peggio lo tagliamo, da quelli di scambio coppia a quelli di spogliarello, a dei locali che dopo un po' di tempo che li frequentavi ti rendevi conto che non avevano il loro core business, diciamo, nello spettacolo, ma nello spaccio di sostanze stupefacenti. E mi ricordo, e me lo ricorderò per tutta la vita, una sera eravamo in questo piccolo locale in Piazza Castello, faccio finta di non ricordarmi il nome, e credo che oggi non esista più o comunque abbia cambiato gestione. Si scendeva appunto dalle scale, si accedeva a questo piccolo locale che però era frequentato prevalentemente da malavitosi, insomma, soprattutto oltre che dai baristi e dai proprietari del locale, da spacciatori e clienti. E mi ricorderò sempre una sera, eravamo lì con altri comici con cui si faceva lo spettacolo, erano Giorgio Ganzerli, che oggi fa l'autore e a sua volta l'attore, e Alessandra Faiella. In quel periodo Giorgio e Alessandra facevano una parodia di Diabolik ed Eva Kent. Molto spesso quel locale, visto che viveva prevalentemente di spaccio, immagino, cioè non è mai stato esplicito, ma la sensazione che c'era era quella. Giorgio e Alessandra stavano mettendo in scena il loro Diabolik e Eva Kent, quando arrivò la polizia per una retata. Giorgio era vestito da Diabolik e guardò i poliziotti e disse: c'è Ginko, e tutti, compresi poliziotti, si misero a ridere, perché la situazione era veramente molto molto surreale. La prima volta. Dai, vieni di là, perché lo sai che la vita è bella. Diego Parasole era destinato a diventare un veterinario, aveva già passato quasi tutti gli esami, eppure la svolta premeva. Era il palcoscenico a farsi sempre più spazio nella sua vita. Dalla gavetta quasi surreale nei locali di Quart'Ordine, ecco arrivare il successo. Sarà Zelig a definire per sempre la sua notorietà. Il personaggio che Parasole porterà sul palco sarà Pistolazzi. Ma ormai il comico ha trovato la sua strada. La sua vera prima volta coinciderà con la nascita della figlia. Sarà quel momento, il momento in cui Parasole sceglierà di cambiare e di parlare di ambiente, di energia, portando in scena una comicità molto impegnata. Poi il ritorno a Zelig è stato attraverso un personaggio che era Pistolazzi, cioè l'automobilista un po' iellato che prendeva costantemente delle multe, perché è fondamentalmente una cosa che forse succede a tutti noi che viviamo in una grande città, no? Quella di dover stare attenti a dove parcheggiamo, di trovarci il divieto di sosta per lavoro in corso messo quando tu hai parcheggiato la macchina e quindi non ti accorgi che c'è questo divieto, per cui qualche giorno dopo non l'hai più mossa e ti prendi una multa e così via. Però la mia natura è sempre stata quella del monologhista. Quando qualche anno fa, in realtà 3 anni fa, è nata mia figlia, ho incominciato a rivedere tutta una serie di temi che mi sono stati sempre cari, tra virgolette, nell'infanzia, e che già mi ero trovato in qualche modo ad affrontare quando studiavo veterinaria, eccetera, e quindi ho incominciato a pormi il problema di cibo sano, cibo biologico e cose di questo tipo. E da lì mi sono accorto che in qualche modo c'è un mondo da scoprire e da riscoprire, tutta una serie di dati sull'ambiente. In qualche modo noi non li leggiamo, non ci informiamo, vuoi perché alcune situazioni magari sono piuttosto inquietanti, vuoi perché tutto sommato in una società come la nostra, che spinge molto nella direzione del consumo, ragionare sul consumare meno ma meglio e così via, viene vissuto come una cosa quasi un po' negativa, no? Cioè c'è questa spinta incredibile verso l'economia, verso la finanza, verso il PIL. Quindi ricominciare ad approfondire quei temi mi ha fatto scoprire che in realtà ci sono tantissime cose che la gente non sa e che forse è bene che sappia. Raccontarle in maniera comica può essere un elemento per avvicinare le persone a una riflessione sulle tematiche ambientali, che sono molto importanti, perché in fondo in questi anni, in questo periodo, si deciderà un po' il futuro dell'umanità e dovremo cercare di capire come affrontare al meglio tutta una serie di tematiche che vanno dal consumo di terra, all'eccesso di consumo di carne, alla fine del pesce. Cioè i dati FAO dicono nel 2048, se continuiamo a pescare così, non ci saranno più pesci commestibili, almeno di quelli che mangiamo abitualmente noi, in mare. Lo leggi sul giornale, lo senti magari in una trasmissione televisiva di approfondimento e 2 giorni dopo tendi a non pensarci più. Allora, ribadire queste tematiche vuol dire far ragionare le persone su cose che sono importanti, che riguardano direttamente la nostra vita e ancora di più quella dei nostri figli. tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così, così un giorno ho scritto su un quaderno: io farò sognare il mondo con la musica. Non molto tempo dopo, quando mi bastava fare un salto per raggiungere la felicità. E la verità è che ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è. Così, portando all'estremo la quotidianità, Diego Parasole riesce a far ridere parlando d'ambiente, denunciando chi invece finge di impegnarsi e poi non lo fa. È la sua prima volta, è il momento in cui trova se stesso, scopre il senso di responsabilità per sua figlia e per il mondo. Ed è per loro, per i figli, per i bambini di un mondo che sarà, che Parasole scrive e combatte facendo ridere. Prendere in giro anche dei nostri comportamenti un po' folli, portandoli al paradossale, per far riflettere le persone, mi sembra molto utile, almeno io ci provo, poi magari non a tutti piacerà, però si può far ridere molto anche toccando temi così, se vogliamo, inquietanti. Ma sicuramente ci sono delle cose che sono scomode da dire, che ti portano a prendere delle decisioni. Per esempio, mi sono reso conto che nella maggior parte dei comuni dove l'acqua era stata privatizzata non erano state trovate delle soluzioni, non erano quasi mai migliorati i servizi, ma erano semplicemente aumentati i costi per gli utenti finali. E a quel punto, per esempio, ho pensato di raccontare questa cosa negli spettacoli. È chiaro che nel momento in cui racconti cose di questo tipo vai anche contro interessi economici molto importanti, e questo a volte può essere uno svantaggio, può comportare in qualche modo, se vogliamo, anche della perdita di lavoro. Mi è capitato in Che Bio ce la mandi buona, che è lo spettacolo che, se vogliamo, parla di più della tematica ambiente, acqua, energia, eccetera, di finire nel periodo pre-referendario lo spettacolo con un pezzo che parlava del nucleare, e mi è capitato che lo vedesse un assessore di un comune e che questo assessore mi dicesse: ah, guarda, il tuo spettacolo ci è piaciuto molto, però noi siamo favorevoli al nucleare, puoi scrivere un pezzo a favore del nucleare? La risposta ovviamente è stata no, ma io in quel comune non ho mai lavorato, no? Per cui scegliere in qualche modo delle posizioni ha dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è che comunque ti senti di portare avanti una cosa in cui credi, magari puoi sbagliare, ma nel momento in cui la dici ci credi. Lo svantaggio è che a volte, andando a toccare interessi economici anche molto forti o interessi politici, perché poi nel nostro paese tutto spesso si riduce a una discussione politica anche su tematiche ambientali e cose di questo tipo, a volte ne paghi le conseguenze semplicemente perché il tuo spettacolo lì non lo farai mai, almeno fino a quando non cambierà quella giunta, insomma. La prima volta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domenica prossima, sempre dopo il giornale radio delle 13. Se volete, potete riascoltarci in podcast. Il nostro indirizzo per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Rien, c'est payé.